è venuto guardandomi per la prima volta indietro, nel senso che per tutte le volte che ho scritto nei libri a marchio Lo Stato Sociale, di solito fatti con Albi Cazzola della band, abbiamo sempre teso all'invenzione. In generale sono sempre stato un fanatico, ecco, mi ero sempre imposto di inventare, non usare mai me stesso. Poi per tutta una serie di coincidenze, letture, chiacchiere e anche probabilmente l'andare avanti dell'età, dirlo, mi sono reso conto che c'era una scintilla da qualche parte che non avevo mai reazionato, per il mio passato comunque da uomo della logistica e poi in una fabbrica e con appunto una famiglia di fatto working class, perché mamma operaia e papà autista dell'autobus, e quindi insomma arrivare da un mondo che in questi anni sembra essere diventato un po' una cloaca ed invece un posto ancora che ha bisogno di essere raccontato, anzi più che mai in questo momento ha bisogno di essere raccontato. Tu hai già detto che c'è molto di autobiografico. Il protagonista si chiama Andrea Costa, come il deputato socialista, e lavora in un grande magazzino appunto di bricolage, e questo lavoro precario scandisce molto la sua vita e, come dire, lo turba molto anche. Sì, certo, il lavoro è centrale all'interno della vita del protagonista, come in tutte le vite di tutte le persone che conosciamo e che ci rappresentano in qualche maniera quando ci guardiamo allo specchio, e quindi cerca di trovare una propria dimensione all'interno di un lavoro che di fatto gli fa schifo, che non vorrebbe fare, ma di cui poi ha bisogno, e quindi inevitabilmente accetta il patto con la realtà di svegliarsi la mattina, mettersi una divisa, andare a riempire degli scaffali, quando in realtà vorrebbe, desidererebbe fare ben altro. La parabola appunto quella lì, cioè riuscire a trovare un compromesso tra le cose che desideriamo e le cose che ci appartengono poi per davvero. C'è una cosa che mi ha colpito appunto leggendo il libro, perché solitamente nella letteratura working class, anche quando, come dire, racconta poi fatti ovviamente personali, c'è una sorta di approccio saggistico, diciamo così, sociologico, mentre nel tuo c'è molta introspezione, molto di ciò che attraversa la testa del protagonista, e anche appunto non solo in relazione al lavoro, ma in relazione agli affetti, alla rabbia che prova, appunto è in una dimensione di introspettiva. Sì, esatto, io non avendo un background accademico e non volendo neanche far finta di averlo, come troppo spesso succede, non ho voluto riempire di parti saggistiche quello che volevo fosse un romanzo duro e puro, e quindi l'escamotage per riuscire ad attraversare alcuni grandi temi e anche collettivi è quello del monologo interiore. Quindi Andrea Costa si ritrova a rimuginare moltissimo su tante cose, attività che penso appunto sia propria di tanti di noi, ed è un modo appunto per dare una visione personale assolutamente autentica, anarchica, per carità, però che io credo in qualche maniera risponda ad alcune esigenze universali, cioè le famose domande chi siamo, dove andiamo, molto spesso in realtà sono ma perché sto facendo tutto questo, e lui prova ad andare dentro a ogni situazione ragionandoci o appunto confrontandosi poi con il suo parco di amicizie, che è poi la vera risorsa che ha scoperto negli anni. Questo elemento, diciamo, come l'hai affrontato, può stimolare appunto anche l'immedesimazione, può parlare tutti noi, perché appunto quelle domande chi ha una determinata condizione come quella del protagonista se le poste nella vita, questo può essere utile anche per un nuovo immaginario? Assolutamente sì, l'immaginario è fondamentale per la working class, perché diventa sia autorappresentazione che conforto, no? Perché di fatto poi se no non viene raccontato da nessun altro, quello che vediamo aprendo il telefono, i social network, non è esattamente uno che si mette la divisa e va verso il lavoro, è ostentazione di un certo tipo di benessere posizionale o comunque di lusso, chiamiamolo così, che però è molto marginale nelle vite. Invece io credo che raccontare un immaginario che è ricco, è popolato di personaggi incredibili, situazioni paradossali, è anche divertente, io penso, perché poi di fatto, per dire, non è che ci si annoia troppo quando purtroppo le cose non vanno bene e possono venire fuori delle cose anche memorabili, ecco, far leva su questo, quindi cercare di non arrendersi e tenere vivo e più largo possibile questo orizzonte, credo che sia fondamentale e necessario, perché sennò diamo spazio ad altri tipi di racconti che però sono il racconto dello zero punto della popolazione. mondiale. Veniamo poi a Bologna, che è, come dire, l'ambientazione su cui tu, diciamo, dai giudizi spietati ma anche piuttosto condivisibili. Quando si parla spesso della dicotomia centro-periferie, beh, insomma, su Bologna, anche se si autonarra diversamente, in realtà si ripresenta tutta. Sì, si ripresenta tutta, e purtroppo tutto il mondo è paese. Io ho lasciato Bologna ormai da diversi anni, abito a Roma ed è identica. Quando vado per lavoro a Milano è identica. Qualsiasi città, dalla media alla più grande, ha questo tipo di problema, ma in generale è un problema non solo metropolitano, ma proprio delle periferie dell'impero, mi piace dire, cioè delle province di fatto, no? Comunque anche periferie che diventano poi periferie dell'anima, sono posti in cui l'infrastruttura culturale, sociale, se non è esistente, è comunque in via di dissoluzione. Parlando del mio quartiere di origine, che è un quartiere sommato mega tranquillo, iperresidenziale, mi sono accorto negli anni che chiudevano posti di socialità diurna, non c'era una libreria, avevo visto la biblioteca, chiudono le edicole, cioè alla fine ti ritrovi a poter andare solo al supermercato. Poi però prendi un quarto d'ora di autobus, arrivi in centro, l'Allero, un'altra città, che però è una città di cartongesso alla fine, no? Cioè non è scenografia per turisti di fatto. E le persone dove abitano per davvero non abitano nei centri storici, abitano nei cerchi periferici, e sono quelle le zone dove bisogna insistere nel rivendicare e nel pretendere che la vita sia dignitosa sotto ogni punto di vista. Quindi non solo che ci arrivi l'autobus o il nuovo tram a forma di Iron Man, ma che ci siano anche delle cose da fare e non solo un supermercato dentro cui andare per spendere. Di qui l'elemento anche, come dire, che è già presente nel titolo centrale, della rabbia, che assomiglia un po' a un odio di classe anche, no? Eh sì, lo è, lo è. È una lotta di classe soprattutto.